Letture di Radio 24. Mercoledì scorso la Cassazione ha condannato il direttore del giornale Alessandro Sallusti a 14 mesi di reclusione per diffamazione. Il direttore del giornale era stato citato in giudizio in merito a un articolo pubblicato su Libero nel febbraio 2007 con lo pseudonimo di Dreyfus, riferito a una ragazza di 13 anni che il tribunale di Torino avrebbe autorizzato ad abortire, notizia rivelatasi poi falsa. Il giudice tutelare del caso, Giuseppe Cocilovo, aveva denunciato Sallusti, all'epoca dei fatti direttore di Libero, in quanto ritenuto colpevole di omesso controllo. Il giorno successivo alla sentenza, Alessandro Sallusti, che fin dall'inizio ha dichiarato di preferire il carcere alle misure alternative o ad altri tentativi di conciliazione, pubblica un commento sulle pagine del giornale. Fa un certo effetto sapere di dover andare in carcere, ma non è questo il problema, non il mio. In un paese dove più che gli euro mancano le palle, non voglio concedere nessuna via d'uscita a chi ha partecipato a questa porcata. Non ho accettato trattative private con un magistrato, il querelante, che era disponibile a lasciarmi libero in cambio di un pugno di euro, prassi squallida e umiliante più per lui, custode di giustizia, che per me. Non accetto ora di evitare la cella, chiedendo la pena alternativa dell'affidamento ai servizi sociali per sottopormi a un piano di rieducazione, perché sono certo che mio padre e mia madre, gli unici titolati a educarmi, abbiano fatto un lavoro più che discreto e oggi, che purtroppo non ci sono più, sarebbero orgogliosi di me e di loro. E ancora, non chiederò la grazia a Napolitano perché, detto con rispetto, nel suo settennato nulla ha fatto di serio e concreto per arginare quella magistratura politicizzata che con odio e bava alla bocca si è scagliata contro chiunque passasse dalle parti del centrodestra e che ora, dopo aver ripassato i politici, vuole fare pulizia anche nei giornali non allineati alle loro tesi. Non voglio poi risolvere io il problema di Mario Monti, accademico di quella Bocconi che dovrebbe essere tempio e fucina delle libertà, che si trova al collo, complice il suo sostanziale silenzio e il suo immobilismo sul caso, la medaglia della sentenza più illiberale dell'Occidente. Così come il ministro della giustizia, Paola Severino, definita da tutti come la più illuminata tra gli avvocati illuminati, dovrà ora chiedersi se per caso non è colma la misura della giustizia spettacolo degli ingroia e dei suoi piccoli imitatori in cerca di fama. Stamane scriverò al prefetto di Milano per annunciargli che rinuncio alla scorta, ragazzi meravigliosi e sottopagati che non finirò mai di ammirare, che da 2 anni mi protegge, notte e giorno, da concrete e reiterate minacce. Non posso accettare che una parte dello Stato, il Ministero degli Interni, spenda soldi pubblici per tutelare una persona che un'altra parte dello Stato, la magistratura, considera in sentenza definitiva soggetto socialmente pericoloso. E ultimo, ma primo in ordine di importanza, oggi mi dimetto, questo sì, con enorme sofferenza, da direttore responsabile del giornale, per rispetto ai lettori e ai colleghi. Il Foglio delle Libertà non può essere guidato da una persona non più libera di esprimere ogni giorno e fino in fondo il proprio pensiero perché fisicamente in carcere o sotto schiaffo da parte di persone intellettualmente disoneste che possono in ogni momento far scattare le manette a loro piacimento. Ringrazio tutti voi per la pazienza e l'affetto che mi avete dimostrato e vi chiedo scusa per i non pochi errori commessi, ma non mi arrendo, questo mai. La battaglia per cambiare in meglio il paese continua. E questo sopruso, sono convinto, può essere trasformato in una opportunità in più per tutti noi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandro Sallusti In Italia più che gli euro mancano le palle, dal giornale del 27 settembre. Dopo la sentenza della Cassazione, la solidarietà espressa a Sallusti da parte dei media e dei politici, di destra e di sinistra, è stata pressoché unanime. Indignazione e incredulità sono stati espressi anche da alcuni cronisti stranieri, come Bill Emmott, ex direttore dell'Economist, che in un'intervista pubblicata sul Mattino di Napoli definisce scandalosa una condanna che, a suo parere, tutti i giornalisti del mondo dovrebbero disapprovare. Intervistato da Franco Bekis per Libero, il corrispondente del Frankfurter Allgemeine Tobias Spiller dice di non ricordare che in Germania o in altri paesi liberi un giornalista sia stato condannato solo per aver espresso delle idee. La cosa che da osservatore più sorprende è questa: la sproporzione fra una decisione e l'altra di un tribunale italiano. In Germania, ma anche nel resto d'Europa, la giustizia è più certa e lineare. Non dipende da questo o quel tribunale. Se commetti un reato, sai cosa ti accade. In Italia, invece, prova a pensarci. Cosa mai devi commettere per essere condannato senza condizionale a 14 mesi di carcere? Sei ubriaco e uccidi una persona mentre guidi? Ti mettono in carcere 14 mesi? Ecco, è questo quello che da osservatore mi colpisce. La sproporzione fra le pene comminate. Se pensi a questo, certo, la condanna di Sallusti è impressionante. Questa era la lettura di alcuni passaggi dall'articolo di Franco Bekis, il giornalista tedesco Tobias Spiller, in prigione per un commento? Un caso unico nei paesi liberi, da Libero del 27 settembre.